se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say. In questo momento questi missili danno ossigeno e forza all'ISIS. E quindi spero che sia la prima e ultima volta che si ripete un errore clamoroso. Conseguenze dei missili degli americani le paghiamo noi, le paga gli italiani e le paga gli europei. Trump mi dà l'idea che si diverta a giocare alla guerra. Io sono un po' anche preoccupato. E quindi probabilmente per i problemi interni, debolezze interne, mal consigliato da quelli che stanno ancora cercando le armi chimiche di Saddam. Mi domando se i disastri fatti in Iraq, in Libia, con le primavere arabe, in Afghanistan non abbia spiegato niente. Dopo 8 anni di Obama, la decisione era di recuperare per il dizionario la parola inaccettabile, perché negli ultimi anni di Obama lui tirava fuori questa parola inaccettabile, si girava e faceva altro e non faceva niente. Signori, buongiorno, sono le 6:31 minuti di questo lunedì 10 aprile, certo una settimana che inizia malissimo, se guardiamo a quello che sta succedendo nel mondo, bisogna poi aggiornare con quello che è successo in Egitto. Oggi devo starmene buono, buonino, perché sennò so che già che passerò una giornata terribile sui social, devo stare buono, buonino. E di recente continuava a dire ogni attentato. Conoscete esponenti di altre religioni che buonino, buonino oggi, buonino. Sto buonino, va bene, sto buonino. Quello che dovevo dire a suo tempo l'ho detto. Chi vuol vedere vede, chi non vuol vedere c'ha le fette di salame sugli occhi. Dico fette di salame apposta. E va bene, e basta. Allora, sono le 6:32 minuti, tra l'altro ricordiamo che a Pandino ci sono 9 gradi. Lasciami questa, bella questa. Mentre a Perugia 13 gradi, a Calusco d'Adda in provincia di Bergamo 12 gradi, salutiamo Danilo. 14 gradi a Sanremo, bella città dei fiori ovviamente. Ieri ho fatto il primo bagno. Evviva, Gabriella, primo bagno a Sanremo, grande. Al Vinitaly di Verona ci sono 12 gradi, in che senso? Di temperatura. 14 gradi a New York, Matteo, quello di Columbus, che si sposta per gli Stati Uniti. E vabbè. Da Valaperta di Casatenovo 9 gradi, Babato 10 gradi. E soprattutto, caro Marione Adinolfi, 27 gradi nel nostro Guido a Ciudad Guayana in Venezuela. Grandissima, cioè da Ciudad Guayana in Venezuela, se mi hai capito, Marione. 27 grandi, coltivazioni di papavero in Venezuela, no. Bravo il ragazzo, 27 gradi, vengono su con una meraviglia. Bene. È la temperatura ideale, oppiace, tu che te ne intendi, di temperature ideali per gli oppiacei. Allora. Suso! così. Meno male che c'è l'Inter, signori. Meno male che c'è l'Inter. Va bene, allora sono le 6:34 minuti. Avete capito che c'è Mariona Dinolfi che oggi ci deve dare anche un pronostico. Poi, quando parleremo di cose un po' meno serie, di Barcellona-Juventus, anzi di Juventus-Barcellona. Ma insieme a Mario Dinolfi voglio salutare Flavia Perina. Buongiorno, Flavia. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Il momento è di quelli duri, il momento di quelli difficili, soprattutto visto quello che è successo in Egitto, nel senso, partiamo solo dall'ultima. A proposito, apriamo il Parlamento, ma vi ricordate? Vi ricordate di recente Trump sulla questione della Svezia? Flavia, te lo ricordi sulla questione? Ma come no? Aveva indicato la Svezia come obiettivo di un attentato che non era mai esatto. Che non c'era. Sai stato. Poi c'è. Poi c'è stato veramente. E certo, sai che è partita adesso la cosa, come faceva a sapere Trump, i complottoni. Beh, la dietrologia passa e quindi sì, c'è un po' di ironia e qualcuno che se lo chiede sul serio. Sì, sì, sì, eccolo qua, Trump. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. Chi l'avrebbe mai creduto, Marione? In Svezia, in Svezia, vi rendete conto? In Svezia. Un grande, un grande. Ma insomma, quello che è accaduto negli scorsi giorni è una mossa politica, c'è poco da fare, sono stati dei passaggi, è stato rimosso Bannon dal Consiglio di Sicurezza, Steve Bannon, che era il suo ideologo, diciamo così, molto putiniano. La mossa è stata oggettivamente di smarcamento anche dall'abbraccio con Putin. Il momento in cui è stato scelto di fare questo atto è il momento, diciamo, politicamente più intelligente, perché suona come risposta a quell'atto intollerabile del bombardamento con i gas nervini ai Idlib, quindi sembrava una risposta diciamo, una mossa politica molto forte. In un momento anche di difficoltà interna, lui incassa tra l'altro il giorno dopo anche la nomina del giudice alla Corte Suprema, che era stata bloccata dal Senato statunitense. Insomma, si rimette un po' in carreggiata rispetto alla politica interna. Sì. Non paga prezzo, cioè oggi sinceramente non riesco a vedere il dazio pagato da Trump per bisogna capire se il dazio lo pagheremo noi nel mondo in generale, perché adesso c'è l'incrociatore anche che se ne va verso la Nord Corea. Diciamoci la verità, non comincia la terza guerra mondiale. Questo è un atto. Lui fa un atto politico, avverte i cinesi e dice: guardate che noi siamo quelli che siamo capaci di fare i bombardamenti. E lo decido mentre sono a cena con te, perché Eh sì, esatto. Era a cena col presidente cinese, intanto facciamo un bombardamento. Quindi fa un gesto, ragioniamo in maniera asettica, fa un gesto politico che è a costo zero e a vantaggio illimitato. Francamente, poiché le logiche della politica le conosciamo, non è una mossa sbagliata. Lo so, però Flavia, non scoprirà la terza guerra mondiale, certo. Qualcosa però nell'asse geopolitico cambierà adesso, se o no, Flavia. Soprattutto io penso che abbiamo avuto la prova provata della spregiudicatezza di Donald Trump. Il problema suo era probabilmente quello di risollevare il consenso e i sondaggi nei confronti della sua persona. In altri paesi occidentali, e non so, i partiti o i presidenti magari organizzano un convegno, organizzano qualche cosa, fanno una campagna propagandistica, lui fa un bombardamento e quindi, diciamo, colpisce la conferma della spregiudicatezza di questo presidente americano. In questa circostanza si è esercitata in questo modo, in altre circostanze tutti noi ci chiediamo come si eserciterà questa pregiudicatezza. L'America è una grande superpotenza, non è che sono solo fatti della politica interna loro, i loro comportamenti, le loro azioni, soprattutto perché sono rivolte verso paesi terzi che stanno che nel nostro vicino a noi. Non è che ha bombardato la Corea, ha bombardato un paese dell'area mediterranea, e quindi le conseguenze dirette di queste azioni, appunto, di propaganda alla fine vanno nel nostro conto. Il problema è quello, cioè, perché poi bisogna capire quando dicevo il riflesso su di noi, appunto, che va a colpire al di là del Mediterraneo. Dopodiché è un attimo per alcuni estremisti dire: voi siete alleati dei malvagi americani. Non è che dicono niente di sbagliato, è così. L'Italia è inserita in uno scacchiere di alleanze fortemente legato fortemente legato agli Stati Uniti, ma sembra appunto che Donald Trump non è che si preoccupi moltissimo di questa vicenda. Io pensavo che fosse più chiacchiere distintivo, diciamo, così, tutti noi pensavamo, tutti che, noi fosse, pensavamo. Che fosse non solo più chiacchiere distintivo, ma era stato raccontato come il portatore di un nuovo isolazionismo americano: ci faremo gli affari nostri, America first, e lasciamo un po' perdere quella che è l'iniziativa americana all'estero, sì, sì, che insomma non è che è stata sempre oculata. Mentre invece no, scopriamo che la linea di politica estera americana è sempre la stessa. Caro Marione, buono buonino, ti devo chiedere questa cosa, e cioè se secondo te siamo in una guerra di religione. Pensa fino a 10. Ah no, io lo dico da tempo, le ragioni dell'attacco, parlo dell'Egitto, del ovviamente, fondamentalismo islamico all'Occidente sono impregnate di natura di ragioni religiose, cioè non è un elemento che, quando vedete i video dell'ISIS, l'ISIS fa i video dicendo puntiamo a uccidere i cristiani, puntiamo a Roma, lo dicono con una nettezza che è ovvia, perché sta dentro una storia che dura da 14 secoli di assalto dell'Islam all'Occidente, che non è una, è successo oggi, succede da 14 secoli che arrivano alle porte d'Europa e cercano di sfondare in territorio europeo. Ovviamente non è l'Islam, è un segmento dell'Islam, non irrilevante, il fondamentalismo islamico ha una radice molto profonda in tutti i territori islamici, e la soluzione è sempre stata quella proposta da Papa Benedetto XVI a Ratisbona, in un discorso che fece incavolare le menti delle verginelle occidentali, ma in cui Papa Benedetto XVI disse chiaramente: o l'Islam riesce a risolvere il suo problema del rapporto con la razionalità, con la ragione, come il cristianesimo è stato capace di mettere insieme fede e ragione, attraversando anche la stagione dell'illuminismo, sì, e facendosene in qualche modo contaminare, o se no, altrimenti l'Islam è un luogo in cui Non sono Papa Ratzinger, ma lo dico in maniera molto umile. Sì, ma ricordati, insomma, i giornali quando ci fu il discorso, certo, di Ratzinger. Non solo i giornali, mezzo mondo musulmano si ribellò. Quello musulmano, quello occidentale reagiva inevitabilmente, perché le citazioni di Benedetto XVI erano citazioni intelligenti, lungimiranti e dure nei confronti del mondo musulmano. La cosa che fu incredibile è che non lo capì il mondo occidentale. Io so che su questo Flavia la pensa diversamente, ne abbiamo parlato anche di recente, però insomma l'idea dell'illuminismo, cioè una rivoluzione che noi abbiamo avuto nel nostro pensiero, nella nostra evoluzione umana, nel rapporto tra cristianesimo e ragione, giustamente arginato la religione come se fuori dalle questioni di Stato, fuori dalle questioni cruciali. Insomma, è una distinzione netta che l'Islam non ha e che produce storture. Questa... Bisogna però anche dire un'altra cosa, quel discorso è di molti anni fa. Guardiamo all'oggi. Oggi, se mai c'è stata una guerra di religione, questa guerra l'ISIS l'ha persa. E l'obiettivo dell'ISIS era quello di sollevare le masse musulmane in Europa, in Occidente, e quindi di trasformare le città europee in campi di battaglia, e ci sono ancora attentati sporadicamente, ma sono attentati non organizzati di singoli individui senza contesto intorno, rispetto ai grandi attentati sofisticati con tanti partecipanti di 4-5 anni fa. Adesso sembra che agiscano davvero cani sciolti e molto spesso esaltati, anche con profili addirittura psichiatrici di disturbo. Le masse musulmane occidentali, i musulmani che vivono nelle nostre città, sono rimasti del tutto indifferenti al messaggio dell'ISIS, non si sono sollevati, non hanno costituito il brodo di cultura di un nuovo terrorismo. L'Europa, che ha conosciuto il terrorismo vero, ricordiamo in questi giorni si è disarmata, ha annunciato il disarmo l'ETA, ricordiamo il terrorismo dell'ETA, quello dell'IRA irlandese, le Brigate Rosse in Italia, l'Armata Rossa in Germania, che davvero hanno suscitato largo consenso e facevano decine di morti ogni giorno, rispetto a quella stagione lì sicuramente il tentativo dell'ISIS è fallito, sono ancora una realtà, sono una realtà in forte difficoltà sui loro territori perché sono assediati, hanno perso territorio e probabilmente saranno rapidamente sconfitti, e il loro progetto di sollevare i musulmani d'Occidente è totalmente fallito. Quello sì, rimangono, come dire, degli attentati impazzite, certo, delle schegge impazzite, sì, certo, che sono pericolose, sono gravi, ma non è quello che immaginavano loro. Loro immaginavano meno città messe a ferro a fuoco dei musulmani, certo che meno male. Questo sì. Allora, però adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi parliamo anche al traffico. Poi voglio parlare anche due cose di politica italiana. Che ci sono sviluppi dai giornali, c'è anche questa immagine di Berlusconi, signori, Berlusconi che bacia l'agnellino, ma l'hai visto, Flavia? Berlusconi che bacia, certo, l'agnellino, certo. Le ironie che si sono più spinte. Beh, nuove categorie politiche, no? La sicurezza è di sinistra, il veganesimo è di destra. Questo, ci sono, io vorrei scombussola un po' tutti. Per esempio, tra poco riveleremo in anteprima il menù pasquale di Marione Adinolfi, ce lo dirà, insomma. Ci sono anche le ironie più spinte, io ho detto dai tempi di Ruby, adesso ai tempi, insomma, dell'Agnellino. Ci sono anche cose che c'entrano, tirano in ballo pecorine e agnellini, ma insomma andiamo al traffico, va. Brum brum brum, c'è il traffico, Milan. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta America ha sbagliato un'altra volta. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ciao Milan. Si sapeva che questo presidente americano era uno scemo. Trump non è un infante mai cresciuto che gioca con i bottoni e vuole mostrare i muscoli. Trump potrà avere dei difetti come persona, ma è un vero presidente americano che quando c'è bisogno di decidere, decide e non sta a girare intorno ai problemi. Yeah. You are my fire, the one desire. Renzi viene paragonato a Fonzi, quello di Happy Days. Però in quegli stessi anni c'era un altro personaggio, Arnold, che era il bambino prodigio. L'attore non è mai cresciuto. Cioè, bisogna stare attenti a essere i bambini prodigio della politica, perché poi devi crescere. Capito Enrico Mentana, Marione? Altro che Fonzi, altro che, no, Fonzi Renzi, Arnold. Ma insomma, io lo dico sempre in questa trasmissione, Renzi sta prendendo il controllo di un partito del 30%. Non mi sembra una cosa da Arnold. No, ma lui si riferiva al 5 Stelle, si riferiva al 5 Stelle, cioè diceva il movimento stia attento che Arnold... Ma io anche il 5 Stelle fa un percorso clamoroso, stare attento a dare giudizi del genere. 5 Stelle è qualcosa che 5 anni fa non esisteva, oggi sta al 35% dei contesti, sì. Secondo i contesti. Cioè, stiamo parlando di qualcosa di gigantesco. Ma è Mentana il primo che li guarda con attenzione, però dice... Sì. Politica non è sempre finissimo, secondo me, fa un po' a simpatia secondo il vento che tira. Oggi, secondo me, tira 5 Stelle Arnold. Ma quindi sono dei tre grandi protagonisti del sistema politico, che sono quelli che hanno agitato le elezioni 2013, e ci ritroveremo nel 2018. Sono Berlusconi, sono il centrosinistra, che allora era Bersani, oggi è Renzi, e c'è il 5 Stelle. Oh, sono tre grandi realtà che si contendono il governo. Tra l'altro, Berlusconi, quando io l'ho visto ieri sui giornali, non sapevo se crederci o se volevo crederci. È tornato. Agli agnelli e ai capretti, in particolare in questi giorni di Pasqua. Avrà è quello che chiediamo agli italiani ed è quello che ha voluto fare anche il presidente Berlusconi, adottando questi tre piccolini che diversamente avrebbero fatto davvero una brutta fine. E Flavia, qui ci metti le foto che hai visto sui giornali come sottofondo? Sì, ci sono tutti questi abbracci a questi tre agnellini, è una cosa molto gentile, molto bella, molto carina, e che tra l'altro, insomma, porta così una voti. Specie diventata voti. No, voti, ma anche beh, dai, voti, in questa politica muscolare, in tutto quanto macismo, il leader forte e in tutta quanta questo imbizzarrimento intorno a delle parole d'ordine muscolari, è una ventata di gentilezza. Penso che sia stata una mossa, perché alla fine poi io penso che magari, perché tu associ naturalmente a Berlusconi, no, questo. Ma certo, ma tu associ naturalmente a Berlusconi, cioè l'immagine del leader docile, tenero. No, ma infatti sicuramente è un modo di ridisegnarsi, no? D'altra parte tutti quanti stanno facendo il leader molto assertivi, quelli che battono i pugni sul tavolo, sì, a cominciare dal suo principale concorrente, cioè Salvini, sì. E Berlusconi fa un'altra cosa, si alza un po' tutti, presentandosi come invece leader gentile e amorevole verso dei piccoli agnellini. Ma adesso, a proposito di agnellini, signori, tu salverai agnellini, caro Marione, o ci vuoi dire il menù di Pasqua? Cosa prevede casa di nostri? Faccio come te, abbacchio al forno con le patate. No, io la abbacchio al forno, al forno no. Non lo so, perché sarò da amici, magari ci sarà l'agnello, sicuramente. Quello è. Vabbè. Abbacchio uguale agnello. Ah, ma sì, ma tu, no, certo, ma tu lo chiami abbacchio, ma sarà un modo anche, si chiama abbacchio, sì, sarà un modo per farlo anche in modo un po' diverso rispetto al nord. Quindi lo mangerete così, lo mangerà così tutta Italia, sta moda è sta tutta follia, non lo so, tollerabile. Perché è una follia? Perché c'è una violenza dentro l'animalismo che pesa tantissimo. È una cosa proprio. L'altro giorno ho scritto che mi commuove più una scaloppina di vitello cucinata bene degli occhi del vitellino. Ma è successo lì. Di che cosa ti commuove più di? Una scaloppina di vitello cucinata bene mi emoziona molto di più degli occhi di un vitellino. Non sono ipocrita, ne muoiono al macello a centinaia di migliaia l'anno e non provo dolore, lo dico con franchezza. Abbiamo questo tipo di alimentazione privata, tanto bambini di alimentazione di carne è una follia, una follia. Costruire una moda vegana in questo momento, in questo paese, è l'ennesimo delirio, insomma, in cui 1,5 miliardi di persone nel mondo fa la fame e da noi vogliamo fare le diete, è una cosa senza senso, totalmente senza senso. In più c'è una dimensione di violenza di frange del cosiddetto animalismo che mi impressiona molto. Capito, Flavia, questo adesso gli faremo passare un'altra bella giornata, ma sui, guarda, social, tra poco ritwittiamo tutto, ovviamente. Trasformare l'alimentazione in un elemento di scontro politico dà la misura di come è ridotto questo paese, diciamo. Cioè, siamo a disporre di niente, ognuno mangerà come gli pare, ognuno farà le sue scelte alimentari, c'è chi vuole mangiare solo verdura, chi come, non so, soprattutto la stragrande maggioranza dei romani, cioè a Pasqua fa l'abbacchio, però individuare come grinale di scontro politico che cosa metti nel piatto è un po' triste, diciamo, è un po' triste, però è un po' tristezza, anche perché dovremmo avere altri problemi, insomma. Beh, è diventato politico nel momento in cui ci sono gli agnellini, ci fanno gli attorini che ci fanno vedere l'agnellino e ci fanno le campagne. Ma sì, ma per carità, ma che ti frega? Guardi le cartoline, le metti da parte o le butti nel cestino, ma che te ne porta? È la questione ormai, l'attacco è di natura sociologica, dicendo tu sei un criminale perché mangi la carne, è davvero incredibile. Criminale, beh, questo sì, assassino. Oh, ricordate la vicenda di Alatri, ci sono alcuni che sono arrivati a dire pescava, quindi morte chiama morte. Per carità, fanatici pochi saranno, ma ci sono, ci sono, quello ragazzo ucciso da Alatri. Leggete i social su questi, in quelle pagine lì, guardate che c'è scritto in... E poi guarda qua, il secolo XIX, Genova, emergenza cinghiali, 4 incidenti gravi, capito? Per i cinghiali, caro Marione. Parategli, va, che meglio. Facciamo qualcosa di meglio. Twittiamo anche questa, Lorenzo. Sparategli. Che vogliamo fare? Facciamo un convegno con i cinghiali, li convinciamo? No, li eliminiamo, perché altrimenti c'è l'assalto alle città. Poi i topi che fate? I topi che sono meno belli del vitellino e quindi si possono ammazzare. Ma che ragionamento? Vabbè, dai, lasciaci ora, dopo che passerai una buona giornata dopo i nostri tweet, lasciaci con un pronostico. Signori, Juventus-Barcellona, secondo Mario Di Nolfi, finisce? Possiamo intanto pregare tutti insieme e poi dire 2-0 per la Juventus, grazie, è necessario. 2-0 per la Juve, ritorno? Te lo chiederò al ritorno, te lo chiederò al ritorno. Dopo il 4-0 non voglio neanche immaginare. Te lo chiederò al ritorno, va bene. Dai, devo salutare Marione Adinolfi e Flavia Perina. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti e siamo ancora in diretta qui su Radio 24. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. La lettura dei quotidiani nel giorno in cui si apre la 206ª settimana decisiva per l'abolizione delle province di questa legislatura, ovviamente 206ª settimana decisiva, chissà. Intanto andiamo a leggere i giornali. Buongiorno Alessandro e buon lunedì, vai di brutto che oggi si lavora, yuppie! Come detto, è il 10 aprile e molti quotidiani aprono sull'ultimo attentato in Egitto. La domenica di sangue è l'apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, strage di cristiani in Egitto, 45 morti. Per il Messaggero, l'ISIS fa strage nelle chiese. La Stampa, sangue sulla Domenica delle Palme. Il Giorno, minaccia al Papa perché il Papa andrà in Egitto, appunto. E si arriva fino al cruento, anche molto truce, titolo di Libero, La Domenica delle Salme. Questo è il titolo di prima pagina nel Giorno della Domenica delle Palme. Per quel che riguarda le altre aperture, l'apertura del Sole 24 Ore, fisco, parte la caccia agli sconti. Negli ultimi 5 anni istituiti, corretti o prorogati 2 bonus ogni mese. Il Giornale invece sulla caccia all'uomo a Budrio e dintorni, in campo Parà e Cecchini, 800 a caccia del criminale russo, che peraltro si scopre sul Corriere della Sera forse è serbo, anche se è chiamato Igor il Russo, e poi ha 1000 altri alias. Mi sembra una roba veramente da film fantascientifico questa. L'apertura invece del Fatto Quotidiano è sulla anticipazione della puntata di Report di questa sera. Salvi l'unità e avrai appalti ENI. Renzi dichiara guerra a Report. Lo scandalo nella puntata di stasera su Rai 3 con un super testimone che dice: Matteo Renzi e Bonifazi parlavano di scambio politico, in ballo la costruzione di alloggi per i tecnici dei ENI vicino a giacimenti di petrolio, con l'ex premier Renzi che rifiuta le domande del programma e già minaccia querele. Ma iniziamo proprio dall'Egitto, l'attualità internazionale che in questi giorni molto si impone. Ci eravamo lasciati venerdì con il blitz americano in Siria, di cui parleremo anche oggi. Ora ci ritroviamo con questo duplice attentato dell'ISIS, rivendicato dall'ISIS in Egitto, contro 2 chiese cristiane copte nel giorno in cui stavano festeggiando la Domenica delle Palme. L'ISIS colpisce le chiese dei copti. Leggo da Francesco Battistini, inviato al Cairo, a pagina 2 del Corriere della Sera. Ho sollevato voi su ali di martiri, sta cantando il coro. Proprio in quell'istante, la messa appena iniziata, a Tanta, la chiesa di San Giorgio, è stracolma. Le palme della domenica, simbolo del martirio che verrà. La mozzetta rossa del celebrante, presagio del sangue che scorrerà. Nessuno nota il kamikaze nei banchi davanti, anche dopo ce ne vorrà per identificarlo dalla testa mozzata. La prima esplosione avviene attorno alle 10, fortissima, dice la TV egiziana, una donna scampata. Il fuoco, il fumo, riempiono le navate, a terra gridavano feriti molto gravi, sangue dappertutto. Budella di gente colpita e gambe staccate dai corpi. I telegiornali non fanno neanche in tempo a interrompere le trasmissioni, dire di 29 morti e 80 feriti dal delta del Nilo, ed ecco il secondo attentato suicida, questa volta da Alessandria, che punta al bersaglio grosso. Tawadros, Teodoro II, 118esimo patriarca di tutti i copti d'Egitto, che per l'ultima domenica di Quaresima sta celebrando nella chiesa di San Marco. L'uomo che tra 20 giorni accoglierà il Papa al Cairo, è lì. Il suicida è nervoso, si fa notare. Alla fine non ce la fa, un video di sorveglianza lo mostra mentre si avvicina al controllo, felpa blu, i poliziotti lo bloccano, lo mandano al metal detector, l'uomo si accosta a una donna in divisa e poi a un'altra, quindi passa sotto la macchina del controllo elettronico e si fa saltare, portando con sé 3 agenti, 14 cristiani e 78 sono i feriti. Questo il dato di fatto. Ovviamente la visita del Papa. La gravità dell'attacco, scrive Battistini, si legge nelle condanne di sauditi, catarini, turchi, emiratini, di solito asciutti se si tratta di cristiani ammazzati. Anche lo sceicco dell'università Al-Azhar, Mohammed al-Tayyib, grande imam sunnita che ha invitato Bergoglio al Cairo, punta il dito sull'Islam deviato che uccide gli innocenti. Trump dice: sono sicuro che al-Sisi saprà affrontare la situazione e saranno 3 settimane di coprifuoco. Bergoglio certamente non è il primo papa atteso in Egitto, ma quando venne Wojtyła era prima dell'11 settembre, dunque un'altra epoca. E proprio del viaggio del papa parla anche Repubblica, pagina 3, i dubbi in Vaticano sul viaggio. Il Papa non vuol rinunciare, bisogna andarci comunque, dice, tutto procede come da programma, è la parola del portavoce vaticano Greg Burke ieri in serata. Del resto, gli fa eco un prelato, non potrebbe essere diversamente. Francesco è andato in Centrafrica, dove la situazione era difficilissima e il rischio per la sicurezza maggiore. Così nell'articolo del vaticanista di Repubblica Paolo Rodari, a pagina 3, si raccontano i dubbi, ma certo la volontà del Papa tra 20 giorni di andare al Cairo. E tra l'altro viene intervistato dal Messaggero a pagina 4 il gesuita padre Samir Khalil Samir, egiziano di nascita appunto e cristiano copto, e dice Samir: la visita del Papa migliorerà i rapporti con i musulmani, soprattutto la situazione dei cristiani, presenterà un'immagine dei cristiani positiva e penso che in un certo senso aiuterà anche l'immagine del governo. Questo dice Samir, che poi di Al-Sisi dice: gli europei dovrebbero smettere di essere tanto naif, tutti i capi nel Medio Oriente sono più o meno dei dittatori. Assad è dipinto come un mostro, ma che pensiamo allora dell'Arabia Saudita che mette in galera perfino un blogger? Oppure di quello che accade il venerdì, giorno di lapidazione delle donne accusate di adulterio? Questo avviene anche in Iran. Al-Sisi è un musulmano osservante, porta avanti una società in cui l'Islam e la politica rappresentano campi ben distinti. Nel nuovo Cairo che sta nascendo, a 10 km dalla città 2 settimane fa, Sisi ha deciso di costruire l'una accanto all'altro la più grande chiesa copta d'Egitto e la più grande moschea d'Egitto. Cerca anche di mettere la laicità al centro come Nasser, per questo pensiamo che sia migliore degli altri. Ma padre Samir fa capire comunque che migliore, peggiore, si tratta comunque di, come dire, graduazione tra dittatori. Bisogna scegliere tra il dittatore migliore degli altri. Vabbè, lasciamo per un attimo da parte gli esteri, li rivedremo più avanti se c'è spazio. Veniamo alle questioni italiane. Ci sono 2 articoli che voglio segnalarvi prima della pausa. La prima è un'inchiesta di Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Parla dell'esercito sempre più numeroso di persone che consegnano il cibo a casa, soprattutto in bicicletta. Sapete che ci sono questioni, si sono anche molti di loro lamentati per mancanza di diritti, ed ecco allora che pronti a parlare di regole per i ciclisti dei pasti a casa, questo è il dibattito che c'è. D'altronde, scrive Dario Di Vico, il business della consegna del cibo a domicilio sta conoscendo in Italia un vero boom. A fine anno il giro d'affari dovrebbe arrivare a quota 700 milioni, erano 400 milioni solo 2 anni fa. Uno dei gruppi che va per la maggiore, cioè Deliveroo, afferma tranquillamente di crescere di mese in mese del 25%. A fine 2017 pensa di aver raddoppiato la cifra d'affari del 2016. Idem i concorrenti Foodora e Just Eat. Oltre al pranzo e alla cena cresce una nuova richiesta, quella delle colazioni. Si cominciano a ordinare breakfast con bacon e uova. E allora, lievitando il business, lievitano anche le cosiddette flotte, cioè i ciclisti che portano a casa il cibo e si incontrano sempre più spesso nelle strade. Che cosa dicono? I rider non sono assunti, ma lavorano con la formula della ritenuta d'acconto fino a 5.000 euro. Passata questa soglia, Deliveroo fa aprire la partita IVA, mentre Foodora opera con lo strumento dei co-co-co. Sempre di più però si fa strada l'idea che bisogna superare queste formule, anche perché sentenze della magistratura in giro per il mondo sul caso degli autisti di Uber hanno sempre dato torto all'azienda. Finora i magistrati del lavoro non hanno preso posizione sui ciclisti del cibo, ma si ha la sensazione che possa succedere da un giorno all'altro. E dunque ecco che la magistratura sta iniziando a valutare con sentenze le varie cause e si pensa di mettere una regolamentazione al sistema. E Dario Di Vico racconta tutte le varie formule e tutte le varie ipotesi. Quindi se fate questo tipo di lavoro sarete certamente interessati a leggere il Corriere della Sera, pagina 20 e 21. Ma sempre sul Corriere della Sera, ma anche sul giornale oggi, sebbene per due storie diverse, ci sono gli articoli che mi fanno più zorre della giornata, gli articoli da mano sul volante. Siamo il paese delle regole, regoline, regolette, burocrazia e compagnia cantante. E allora succede, per esempio, a Lallio, in provincia di Bergamo, lo racconta il Corriere della Sera con Leonard Berberi, che una serie di mamme sono state multate con 1.032 euro perché hanno aiutato il gestore di un chiosco a spalmare marmellata perché c'erano tanti bimbi e volevano fare in fretta per dare da sfamare, da mangiare a questi bimbi e non avevano l'autorizzazione, il permesso. Queste mamme che si sono permesse di aiutare il gestore del chiosco a dire dai, ti aiutiamo noi, spalmiamo un po' di marmellata. 1.032 euro. Ma non è finita. Sul giornale Riccardo Pellicetti racconta la storia di Mara Lucci, titolare di un salone per parrucchiere, una parrucchiere, insomma, a Lecco o in provincia di Lecco, che si è fatta la piega, cioè su se stessa, sui suoi capelli, nel proprio locale, ma non ha emesso lo scontrino e quindi 500 euro di multa perché si fa la piega nel suo salone senza battere scontrino. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Inter, il cugino intelligente di Alessandro Milan. Già, è vero, infatti, meno male che c'è l'Inter, sono una di quelle, è uno di quei mantra, di quelle, quegli hashtag che ho lanciato, che di tanto in tanto viene rispolverato, come ieri, per esempio, se avete avuto una giornata magari difficoltosa, la digestione, la domenica un po', dici, vabbè, però, meno male che c'è l'Inter e la cosa, insomma, la giornata vira un po' più sul sereno. Allora, sono i giorni del così oggi ci siamo ovviamente portati, abbiamo portato la nostra parte tutti gli animalisti che ci stanno scrivendo dopo l'intervento di Adinolfi, tutti i fanatici, cioè, sentite questo che ha scritto poco fa: i musulmani che muoiono, i cristiani che muoiono, chi se ne frega. Continuate a sterminare capretti e quindi crepate. Ecco, cioè già i fanatici sono quelli che pongono gli animali e gli esseri umani sullo stesso piano. Questo addirittura è talmente fanatico che pone gli animali in un piano superiore all'essere umano. E vabbè, qui proprio il caso è proprio psichiatrico, ecco, non so come dire. Comunque, dopo gli animalisti, adesso anche gli interisti. Sempre animali, di animali stiamo parlando. Scherzo, dai. Amici, un sorriso, amici dell'Inter, stravincerete il derby di sabato pasquale, su, consolatevi col futuro e prossimo 4-0 che metterete a segno nei nostri confronti. Allora, sono i giorni del DEF, sono i giorni del DEF. E cioè la manovra, il governo cerca 800 milioni, voi li avete, cari ascoltatori? Perché questo è il titolo del Messaggero, Luca Cifoni, pagina 9. Un documento di economia e finanza sostanzialmente definito, con l'elenco di riforme da inviare a Bruxelles inserite nel programma nazionale, e una manovrina ancora da mettere a punto, anche perché nelle ultime ore si gonfia di nuovi capitoli, diventando quindi una sorta di decreto omnibus. Balla, insomma, l'agenda del governo che secondo i piani avrebbe dovuto approvare domani contestualmente il DEF e il provvedimento di finanza pubblica. È probabile invece che per quest'ultimo serva ancora qualche giorno, per cui il Consiglio dei Ministri potrebbe approvarlo al massimo con la formula del salvo intese. I problemi, secondo il Messaggero, sono essenzialmente due: il coordinamento di un testo più complesso e la ricerca delle risorse necessarie ad assicurare una correzione dei conti del 2017 da 3,4 miliardi, la famosa manovrina che ci chiede l'Unione Europea. Come si troveranno questi soldi lo scopriremo nei prossimi giorni, anche perché arriva, e questo secondo Repubblica, nei conti pubblici, un nuovo sconto fiscale è allo studio del governo, lo racconta Valentina Conte a pagina 11, lo sconto fiscale per le donne che lavorano. Nel menu del DEF, o meglio nel piano nazionale delle riforme che lo accompagna e che sarà approvato domani, poi spedito a Bruxelles, il governo ha inserito anche questo, un intervento a favore del secondo percettore di reddito nelle famiglie, quello che guadagna di meno e in generale nelle famiglie, visto il gender gap, cioè il divario tra i salari, è quasi sempre la donna, quasi sempre, mica ho detto sempre. L'obiettivo ambizioso è multiplo: abbassare le tasse, combattere la povertà, aiutare il ceto medio, sostenere la natalità, sfondare quota 60% di occupati in Italia mai oltrepassata e nello stesso tempo strizzare l'occhio politico all'utile alleato centrista. Dunque la detrazione, lo sconto fiscale per chi guadagna meno all'interno di una famiglia. Vedremo se c'è anche questa. La politica, sì, vabbè, ci si muove sulle primarie. Le primarie che non verranno rinviate. C'è la situazione della salute di Emiliano che si è rotto il tendine. E lui dice però non chiedo tempi più lunghi, mi sto organizzando, piuttosto andrò in giro con la carrozzella, ma farò la campagna elettorale per le primarie. Su Repubblica vi segnalo un interessante articolo, sono i sondaggi di Ilvo Diamanti, che oggi si concentra a cercare di capire all'indomani della kermesse di Ivrea di che pasta è fatto il popolo che vota Movimento 5 Stelle, cioè sono persone vicine a quali partiti, ovviamente prima di votare 5 Stelle. E beh, scrive Ilvo Diamanti, a celebrare a Ivrea Gianroberto Casaleggio, un anno dopo la sua morte, c'era appunto il Movimento. E in questa fase politica il Movimento 5 Stelle si muove a proprio agio, d'altronde si definisce un non partito, simbolo della non politica di questo non paese. Casaleggio, d'altronde, è stato figura significativa della non politica italiana e del non partito che ne è divenuto il riferimento. Allora, in questa analisi, con tanti grafici interessanti, né destra né sinistra, è un po' il partito piglia tutti, il partito dei delusi della politica. Per esempio, in questo schema del Movimento 5 Stelle, qual è la percentuale di elettori del 5 Stelle che si dicono vicini o molto abbastanza a questi partiti? A sinistra italiana? Il 15% di coloro che votano al Movimento 5 Stelle si sentono vicini a sinistra italiana. La maggior parte però a Lega Nord, quindi il 20% di coloro che votano al Movimento 5 Stelle si sentono vicini all'area Lega. Il 10% a Forza Italia, l'11% a Fratelli d'Italia, il 7% al PD e a NCD. Cioè questo è quello che dichiarano gli elettori del Movimento 5 Stelle di sentirsi vicini a questi partiti. Invece qual è la percentuale di elettori che si dicono vicini al Movimento 5 Stelle ma che in realtà votano per altri partiti? E anche qui il 23% di coloro che votano la Lega si sentono vicini potenzialmente al Movimento 5 Stelle, il 26% di coloro che votano Forza Italia dicono lo stesso, il 23% di Sinistra Italiana anche, il 27% di Fratelli d'Italia che votano Fratelli d'Italia si dicono potrei votare 5 Stelle. Come vedete è un partito, un movimento, ecco dai, adesso non stiamo a disquisire, che piglia tutti, piglia un po' di qua e un po' di là. A proposito di destra, invece, c'è la notizia, secondo il Corriere della Sera, Paola Di Caro, di Berlusconi che si sta riavvicinando a Giorgia Meloni, e per questo Meloni ad Arcore, Berlusconi lavora al centrodestra unito. Berlusconi ha invitato, facendo il grande passo, ha invitato Giorgia Meloni a un incontro riservato ad Arcore, e dunque per parlare del centrodestra, a vedere se si riesce a ricompattare. Oh! Trotta, trova Falcinelli. Oh! L'Inter ancora non è entrata in campo. No, Falcinelli, tocco morbido! Oh! 2-0! Salutiamo con l'inno del Crotone un sogno in più. Mauro Meazza. Senti che bello, senti che ritmo. Del cuore rosso blu. Quando giochi tu è un'emozione in più. Le rime baciate. Ragazzi, grazie, perché grazie Alessandro, prego, grazie, prego, ti sento particolarmente ringalluzzito nella, perché è la settimana del closing, è la settimana del 3-0 decisiva, dell'Inter sul Milan nel derby. Ti porti avanti con le scaramanzie, quindi già comincia un po' la tua retromarcia. Va bene. Allora, guarda, io naturalmente, avendo ispirato anche da questi versi così alati dell'inno del Crotone, al quale fanno naturalmente i nostri complimenti, vado a leggere i miei poveri 24 endecasillabi del lunedì, in cui vedremo se troverà posto anche una citazione per le vicende calcistiche di ieri. Con il tuo permesso, prego. Ma naturalmente anche no, senza. Soprattutto. Nel dolce avvicendar delle stagioni, la primavera è certo la più lieta, poiché fioriscono le dichiarazioni e il 7:30 allora si completa. S'affannan padri, madri ed anco i pupi in cerca di scontrini e detrazioni, ma non è tempo di pensieri cupi se guardano del sole i paginoni, laddove abbiamo riassunto con perizia ciò che di nuovo dicono le istruzioni, e allor graditi come liquirizia vedrai tra quegli sconti quelli buoni. Se poi cartelle devi rottamare, affrettati che il termine sa propinque, e per li casi critici sbrogliare ti consigliamo la pagina 5. Ma pochi sono 24 versi per dir del molto che oggi proponiamo, così che i lettori mai siano persi, di IVA e di bilanci ragioniamo. E giungo infine al doloroso passo, con sdegno stoico ed anche un po' socratico. Crotone fu fatale e fu sorpasso. Auguri per il derby. Manda il traffico. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Alessandro Milan, il cugino rosicone di Alessandro Juve. Va bene, dai, inizia. Però quella del cugino cleptomane era la migliore di tutte. Sì, propongono per Mauro Meazza stipendio doppio, anche se il sole ha dei problemi, stipendio doppio come giornalista e poeta ispirato. Questa la gireremo al direttore del personale, vedremo un po' se possiamo portare avanti questa, così vedi Mauro e Maurino che insomma un colpo ogni tanto, una mazzata però anche una carezza. Stipendio doppio per Mauro Meazza, subito su change.org fate la petizione, grazie, la firmeremo. Allora, in tutto questo, la cronaca, c'è questo fantasma che è accusato dell'uccisione di Davide Fabbri, barista di 52 anni, a Riccardina di Budrio, in provincia di Bologna. Poi è accusato di una sparatoria a Porto Maggiore, dove ha perso la vita una guardia provinciale volontaria, un suo collega è rimasto ferito, dunque di un'altra uccisione, quella di Valerio Verri. Ed è un fantasma. È Igor il russo cosiddetto, ora si scopre che in realtà Igor Vaklavic dovrebbe essere serbo e quindi è Igor il serbo. Ci sono 800 persone, reparti speciali che lo stanno cercando, si pensa che sia lui l'autore di questi due omicidi. L'appello del procuratore di Bologna che dice attenti a chi incontrate, 800 persone, la gente che si rinchiude in casa, Igor Vaklavic sembra davvero un fantasma, ricercato e condannato per varie rapine, solita storia, doveva essere espulso, si è fatto un po' di carcere, ma davvero poco, e viene giudicato molto violento con due pistole, diversi proiettili, fuggire tra campi dove mangia e si ciba di frutta e verdura rubata qua e là, e è davvero in maniera misteriosa un uomo che sta tenendo in scacco mezza Italia, almeno reparti speciali che lo stanno cercando palmo a palmo. Tra l'altro è interessante la pagina su Il Giorno, pagina 7. Su Facebook esiste un'identità che è riconducibile a questo Igor Vaclavich. È l'identità di Ezechiele Norberto Fer. Questo è il nome che compare sul suo profilo Facebook, con il quale risulta tra l'altro indagato a Bologna per l'omicidio del barista di Budrio. Quindi questo è il suo vero nome? Boh, chi lo sa. D'altronde ha mille volti e mille nomi di quest'uomo, ieri sera ufficialmente indagato sia per il delitto di Davide Fabbri che per quello di Valerio Verre. Su Facebook, tra l'altro, se voi scorrete questo profilo, io l'ho fatto prima per curiosità, ripeto, Ezechiele Norberto Fer, Feher con la H, F-E-H-E-R, a un certo punto c'è un selfie nel giugno dell'anno scorso di lui che si fa un selfie spavaldo il 18 giugno mentre è ricercato e si presenta in piazza Trento Trieste gremita di passanti curiosi attirati da una manifestazione di fumetti a capelli e pizzetto tinti, via la mimetica il passamontagna si fa una foto. Ma non è l'unica foto che pubblica. Nella bacheca se ne vedono altre, per cui un profilo anche misterioso, cioè davvero incredibile, di quest'uomo che sta tenendo in scacco i mezzi reparti speciali italiani. In tutto questo, signori, ne abbiamo già parlato varie volte, però ripeto, i numeri, i dati, tanto contesterete anche i numeri e i dati, anche se sono numeri e dati della polizia. Michela Allegri, Valentina Errante, pagina 14 del Messaggero. Furti e rapine sono diminuiti. Avete capito bene? Diminuiti. Secondo le denunce. Allora, la gente dice, ma non si denuncia. E perché? L'anno scorso allora si denunciava e quest'anno non si denuncia. Non è che è cambiata la tendenza nel denunciare. Uno che non denuncia una rapina un anno fa non la denuncia neanche 5 giorni fa se non la vuole denunciare. Comunque, furti e rapine sono diminuite del 10% in un anno. I dati sono stati diffusi in occasione della 165esima festa della polizia. Il Messaggero, dunque, nel giorno in cui l'Italia segue col fiato sospeso la caccia al killer di Budrio, il detto Igor il Russo, anche qui però pare che sia serbo, quindi sarebbe Igor il Serbo o Igor lo Slavo, non lo so. I dati diffusi dalla polizia dimostrano che la percezione del pericolo è differente dalla situazione reale. I reati sono in calo rispetto al 2015, soprattutto quelli più cruenti. Nel 2016 sono stati rintracciati e arrestati 24 importanti latitanti, 5 dei quali inseriti nell'elenco dei pericolosi. Quindi omicidi volontari, violenza sessuale, furti, ricettazione, rapine, estorsione, usura, sequestri di persona, guardate un po' i numeri, li trovate sul Messaggero. In tutto questo, signori, la Pasqua diventa vegana? Questa è la domanda, il punto di domanda. Il Corriere della Sera dedica una pagina a questo tema, già affrontato alle 6.30 con Mara Dinolfi. Abbiamo fatto arrabbiare un po' di animalisti. Vabbè, ma quelli intelligenti non si sono arrabbiati, perché insomma c'è la possibilità di, in estrema libertà, di mangiare la Pasqua quello che si vuole, quindi vegana, dando la possibilità a chi vuol mangiare l'agnello di mangiare l'agnello. Da che mondo è mondo. Però è partita questa campagna che vede anche Silvio Berlusconi, no? Baciare gli agnellini, sapete, questa svolta di Silvio Berlusconi. E il Corriere della Sera con Fabrizio Caccia si chiede in una pagina se stia cambiando qualcosa. Beh, dai dati sembra di sì, perché sono calate del 30% le prenotazioni di abbacchi, capretti e agnelli. La tradizione tiene ancora, ma pare che ci sia un 30% in meno di prenotazioni. faccio vedere sulla pagina Facebook, sul mio profilo Facebook. In tutto questo c'è l'emergenza cinghiali. Il secolo XIX racconta che ci sono stati già 4 incidenti gravi in autostrada per i cinghiali. Che facciamo? Come ha detto Adinolfi, facciamo un convegno, invitiamo i cinghiali, cerchiamo di fargli capire la sensibilizzazione del tema della sicurezza stradale? Non lo so. In tutto, per finire, la carta costa, l'articolo più utile sui giornali dedicato a Michelle Pfeiffer, che al quotidiano La Stampa in una pagina dice: ma che è finita, finalmente vi diverto. Insomma, Michelle Pfeiffer, che dopo essersi dedicata ai figli, ora pensa di nuovo alla carriera. Ma chi se ne frega!